Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Eccoci, siamo pronti, operativi come sempre dal Groove Master Studio di Radio 24 per il sound check, la prova del suono. Buonasera a tutti voi, buonasera al nostro super, l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. Buonasera, buonasera. Buonasera a te Riccardo, grazie, e buonasera anche all'immancabile Francesco Tromba, al quale oggi abbiamo dato anche il compito di dare una ripulita nella stanza della nostra discografia. A che punto sei? A buon punto, ho iniziato, diciamo. Abbiamo iniziato. Ma hai visto quanti CD si sono accumulati? Sì, sono una marea. Anche se ormai è difficile vedere la distribuzione del CD fisico, perché visto anche le multinazionali non ci mandano più i CD, non funziona più. No, fortunatamente, perché non abbiamo più dove metterli. Non abbiamo più lo spazio, però quasi è ancora una cosa importante invece per le giovani band e per i giovani artisti tenere proprio in mano fisicamente l'oggetto del CD. Alla fine è sempre un bel oggetto da vedere, da sfogliare, un bel CD fatto bene, composto bene, fa la differenza. Ho capito, ma tu quanti ne compri? Quanti ne compro? In realtà pochi, perché anch'io ho un problema di spazio, compro solo quelli per cui vale realmente la pena averli. E dove li compri i CD? Nei negozi di dischi. Nei negozi, ma quando mai? Vai, no, nei negozi di dischi. Tu vai ai negozi. Concerti, io ti ho visto comprare i CD solo ai concerti. Anche ai concerti, perché in alcuni casi i dischi che piacciono a me non li trovi neanche al negozio di dischi, quindi devi andare direttamente dall'artista a comprarli. Chissà se i Tinturia ci porteranno il CD nuovo. Non so se l'hanno fatto. Se è arrivato in Sicilia. Se è arrivato, no, in Sicilia sicuramente, ma se è arrivato in Calabria, quello già quello sarebbe una cosa formidabile per loro, no? Riuscire magari a superare lo stretto di Messina. Sì, stiamo parlando dei Tinturia, che sono una band formidabile, ormai accreditata in tutta Italia, una band siciliana che canta in siciliano anche. Ma anche in italiano ogni tanto. Anche in italiano. Pure in italiano, così dicono. Quando poi cantano non lo so. In italiano non li capisco. Neanch'io. Vi stiamo parlando di Lello Analfino e i suoi Tinturia, che saranno ospiti del soundcheck naturalmente a partire praticamente dalle 8 dalla alle seconda 20. Parte, seconda sì. Parte, subito dopo l'informazione, si materializzeranno qui nel nostro studio. Nella prima parte invece direi di presentare alcune novità interessanti. Qualcosa abbiamo già ascoltato, ma direi di segnalare ancora una volta, perché abbiamo proposto il nuovo EP di Amber Navran di domenica. Sì, e bellissimo. Il pubblico è diverso, mi hanno detto. Così dice. Gli esperti di Radio 24 mi hanno detto: guarda che il pubblico è diverso, il pubblico del soundcheck della domenica è un altro tipo di pubblico. Perché magari appunto le abitudini la domenica sono diverse. Sì, perché il sabato c'è il drive time, tanto la radio si sente in macchina. Chi è che ascolta la radio a casa? Penso 80-90% ascolta in macchina. Sulle app? Ogni tanto qualcuno, qualcuno. Sì, io sento la radio sulle app perché il suono è migliore. Io pure, perché comunque in macchina non è proprio il massimo. Comunque, dunque, il sabato sera c'è il drive time, quindi noi apparteniamo al drive time. Stanno per chiudere i negozi, quasi tutti, la gente va in giro, rientrano in macchina, si torna a casa prima di cena oppure si sta già uscendo per raggiungere i ristoranti e i locali. E quindi è il nostro momento, mio caro Francesco Tromba, direi di dare il via allora al sound check di oggi con Amber Navran, ragazza californiana, sassofonista, flautista, polistrumentista, cantante e anche una ragazza abbastanza piacevole, voce solista dei Moonchild, al soundcheck ritorna con Last Day I Love qui al soundcheck Amber Navran. Niente male si sente il suono dei Moonchild, anche perché poi tutta la produzione di Amber Navran è stata realizzata proprio dal collettivo Moonchild. Sì, perché sono uno il prolungamento dell'altro, sono un gruppo che sta insieme da tanto tempo e quindi sono un po' la stessa cosa, diciamo. C'è un'altra band che ha sorpreso le nostre orecchie ultimamente, che arriva direttamente dall'Australia, quindi dalla California dei Moonchild e di Amber Navran ci spostiamo proprio a qual è la città? Melbourne. Da Melbourne direttamente arriva questa nuova formazione che risente naturalmente dei punti di riferimento tipici del sound di Hiatus, Kiyote e Napalm. Vi stiamo parlando dei 30 70. Tra l'altro questo disco è prodotto anche da uno dei membri degli Hiatus Kaiyote, quindi anche il suono che c'è nel disco è proprio tipico degli Hiatus Kaiyote. E non solo il suono della band, ma anche il suono della voce, il timbro della voce della solista, sì, ricorda molto quello di Napalm. Quella dei 3070 è un po' diversa, nel senso mi sembra un po' più roca quasi. Un po' più, come si chiama la ragazza? Si chiama Alicia Joy. Alicia. Sì, Alicia. Qua viene, il napoletano farebbe subito la battuta. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo ai 3070 al soundcheck con Steady Asin. A me è piaciuto moltissimo questo brano. Questo disco in generale è molto bello. Il disco è forte. Prima quindi forte, attenzione, sì. Lo diciamo anche ai promoter, perché ogni tanto noi sforniamo delle primizie e poi i promoter italiani capiscono che devono iniziare a convocare gli artisti e le band magari per i prossimi festival estivi. Tra l'altro ci ho parlato con la cantante via Facebook, mi ha detto che lei è già stata in Italia, è stata in Puglia la scorsa estate, in posti assurdi tra l'altro, perché lei ha anche un progetto da solista, quindi ovviamente diciamo è molto più economico portarla dall'Australia rispetto a portare tutta la band. Ma noi vogliamo vederli dal vivo, 3070 al soundcheck, Steady Hazing, naturalmente aspettiamo i Tinturia con Lello Analfino che arriveranno prima o poi, speriamo. Soundcheck, il suono della musica di DJ Telesco. JJ, it was such an absolute pleasure to meet you. You are awesome. See you soon, Becca Stevens. Non è male ricevere questo cd. La fai bene. Grazie. La voce di Becca Stevens. Sì, uguale, guarda. Becca Stevens al soundcheck in compagnia di quello che lei stessa considera un fratello quasi. Sì, un fratello assoluto, perché comunque si sono conosciuti durante Family Dinner degli Snarky Puppy, la registrazione che è avvenuta a New York, però è nato subito l'amore fraterno. Amore fraterno due, con Jacob Collier, e infatti hanno registrato questo brano che per ora si trova soltanto su YouTube in versione video, tra l'altro video diretto da Jacob Collier, che oltre a essere un polistrumentista incredibile e meraviglioso tutto quello che sta facendo in questo periodo, è anche bravissimo con le idee visive, fortissimo, sì, da sempre. Un grande videomaker. Un vero talento, e quindi hanno registrato insieme Bathtub, che è questo brano che hanno realizzato proprio a casa di Jacob Collier durante la permanenza di Becca Stevens un po' di tempo fa, quando stavano proprio realizzando insieme anche gli arrangiamenti che poi troverete in Regina. Questo è il titolo dell'ultimo album di Becca Stevens, che è stato ultimamente in Italia. Noi l'abbiamo incontrata, siamo stati un po' insieme, abbiamo proposto anche una bellissima intervista. Ho avuto anche il piacere di accompagnare Becca Stevens a vedere il concerto di uno dei nostri musicisti preferiti ormai da anni, che è Brad Mehldau con il mandolinista Chris Steele. Concerto fantastico, ancora più bello perché l'ho visto con Becca Stevens, e quindi commentare con lei quello che facevano questi mostri sacri è stato, devo dire, fantastico. E poi però mi sono tolto anche lo sfizio di essere riuscito a portare Becca nel backstage per incontrare i suoi amici. È stato molto forte, una bellissima esperienza. Io invece la devo ringraziare tantissimo, perché mi ha fatto conoscere Laura Mbula, che diciamo sono abbastanza innamorato di Laura Mbula. Sì, lasciamelo raccontare. Francesco, che ha iniziato anche la collaborazione con un ufficio stampa prestigioso in Italia, si è ritrovato poi a dover guidare, occuparsi della promozione, sì, proprio di Becca Stevens con il suo trio. Che ne dice? Bella ragazza. Sì, inizialmente era un pochettino diciamo sulle sue, poi piano piano ci siamo conosciuti e si è dimostrata subito affettuosa. Infatti, io ho visto che ingresso fatto nel suo appartamento a Milano. Sì. Fatto un ingresso. C'eri anche tu, c'era anche il Super Bomarzi, un ingresso da Formula 1. Sì, subito con lo champagne. Subito champagne. Ma insomma, l'abbiamo. Beh, eri contentissimo tu. Cioè, proprio, contentissimo. Non ti ho mai visto così contento. Vabbè, non lo sai tu. Che ne sai? Guarda, mi casa tutta la mia vita. Il tromba. Senti, tromba. Allora, visto che abbiamo parlato di Jacob Collier e Becca Stevens, direi di continuare così e di ascoltare ancora una volta questa versione di As the City Wonder, rifatta da questi due. due meravigliosi talenti. Il brano bellissimo. È bellissimo e il loro arrangiamento è strepitoso. Mi sa che questo è un brano che potrebbe anche accaparrarsi un Grammy proprio per l'arrangiamento alla prossima consegna. Magari, io le ho detto, secondo me vincerai prima o poi il Grammy, le ho detto a Becca Stevens. Lei mi ha guardato un pochettino, non sapeva forse dove toccarsi. Ecco, esatto, esatto, forse è sbagliato a dirlo. Va bene, comunque noi lo pensiamo sul serio. Io lo penso davvero. Becca Stevens in attesa dei Tinturia, Lello Analfino, che stanno parcheggiando. Come sono venuti? Col trattore dalla Sicilia, no? Col mulo, no, va bene. Becca Stevens al soundcheck con Jacob Collier. Soundcheck. Il suono della musica. Love Me Back, il titolo di questo brano che troverete nell'ultimo album molto ben realizzato di Music Soul Child, praticamente un maestro del contemporary R&B, qui al soundcheck di Radio 24, in attesa dell'avvento, ovvero la presenza in studio di una band molto amata nella loro regione, in Sicilia, ma una band che io ho scoperto ormai tanti anni fa. Anzi, potrei anche vantarmi perché avendo sentito subito un'energia positiva e il talento anche musicale di Lello Analfino con i suoi Tinturia, mi venne l'idea, avendo loro vinto un premio in un festival che si faceva una volta a Benevento, che era il Banjo Festival, mm-hmm. Ero lì proprio come direttore artistico, ma ti sto parlando proprio dei primi anni, fa. Un secolo fa, no, però parecchi anni sono passati, e loro vinsero un'edizione del Banjo Festival e fra i vari premi si aggiudicarono anche una registrazione discografica che decisi poi di guidare personalmente con il mio team, e quindi mi ritrovo anche a essere producer a distanza di anni di una band secondo me fantastica, perché forte musicalmente, ma anche perché i testi che scrive Lello Analfino sono tutti molto interessanti, intelligenti e puntano sempre l'accento su temi attualissimi. Sì, e poi mettono un buon umore quando li ascolti, veramente fantastico, cioè non sono come diciamo buona parte dell'ambiente un po' più musicale italiano, diciamo di quelli indie che sono un pochettino diciamo depressi. Non so se sono depressi i Tinturia o se suonano indie, fatto sta che a me piacciono molto ed è per questo che li abbiamo invitati qui al soundcheck di Radio 24, anche se poi sono con un organico ridotto perché abbiamo detto le nostre necessità. Come si presentano qui al soundcheck, Bomarzi? Allora, si presentano chitarra acustica, batteria basso e la voce di Lello Analfino. Ah, quindi tutto fate, tutto pronto per loro? Sì, sarà una situazione più acustica, io per metterli a loro agio ti dico, li chiamerò a papà. Li chiamerei a papà, perché? Perché? No, spiegamelo subito, perché, non è che abbiamo tutto questo tempo. Perché sul nostro amico, che è anche un loro tecnico del suono, ingegnere del suono, lui ha questa abitudine, dice a papà ogni cosa. Come si chiama questo ingegnere? Si chiama Daniele Pantusa. E dice, quindi è il loro ingegnere del suono e quindi questa sera sei tu a papà. Esatto, io li metto a loro agio, cercherò di metterli a loro agio. Hai detto bravo, tutto? A papà, bravo, hai detto tutto. Allora, siamo quasi pronti per dare anche la linea a Milano per l'informazione, giusto? Sì, ci siamo, poco. Bomarzi, no? Manca un po'. Io direi di andarci piacevolmente con un vecchio disco. Sì, di un altro songwriter fantastico. Sì, una songwriter bravissima e anche una delle mie bassiste preferite. Sì, oltre ad essere super tecnica, sa anche scrivere delle grandi canzoni. È meravigliosa. Michelle in The Gay Ocello. In The Gay Ocello, non mi viene mai questo in The Gay. Non è facilissimo. Michelle in The Gay Ocello torna al soundcheck proprio dal primo album, tra l'altro il primo album Plantation Lullabies, prodotto da Madonna. Pensa che intuizione Madonna. Pensa che ha scelto tra Madonna e Prince, lei ha scelto Madonna. Ha scelto Madonna, chissà per quale motivo. Boh. Call Me Plantation Lullabies, l'album di Michelle in the Gay Ocello, il primo album di questa formidabile artista. Per chiudere la prima parte del soundcheck, ci risentiamo dopo l'informazione con i Tinturia e Lello Analfino live dal Groovemaster Studio. Soundcheck, il suono della musica. Siamo pronti, operativi dal Groovemaster Studio per la seconda parte del Soundcheck, il suono della musica di Radio 24, e anche pronti per salutare e abbracciare con affetto, anche perché sono appena arrivati dalla Sicilia, hanno fatto un viaggio lunghissimo, avventuroso, come sempre quando si parte dalla Sicilia, Madame e Messie, Put Your Hands Together, Lello Analfino e i Tinturia. Grazie, grazie. Grazie, ben trovati. Scusami, ben trovati. Vorrei essere più preciso, sì, vorrei essere, sì, ed è importante per me. Ladies and gentlemen, l'architetto Lello Analfino è il grazie. Beh, è importante sì, perché sai, la gente di solito pensa quello è un musicista, chissà che lavoro fa, chissà che cosa ha studiato. Io invece lo voglio dire che tu sei un architetto, che però non pratichi, non sei praticante. No, ti spiego. Io mi sono laureato perché ero senza automobile in quel periodo. Allora mio padre mi ha detto: se ti laurei ti compro una macchina. Perché se tu avessi dichiarato a papà voglio fare il musicista, diplomo al conservatorio, mi dice: dai, va bene, ora smettila di scherzare, dimmi le cose serie. Invece fortunatamente la macchina è arrivata, sì, la Peugeot 108 all'epoca. Una Peugeot 108, mi ricordo. Senti, ma poi perché sul serio? 106. Perché poi hai lasciato architettura? Perché hai sempre avuto il morbo della musica, ormai aveva già fatto presa nel DNA. Allora, Giorgio, se la dobbiamo dire tutta, io devo dire che alla fine degli anni 90, quando io cominciai a fare musica con i Tinturia, avemmo la fortuna di incontrare un tale che si chiamava Giorgio Telesforo, che ci notò ad un festival e che ci disse potete fare musica, e ci produsse un disco che si intitolava Abusivi di necessità. Non scaricare la responsabilità della tua carriera, perché tuo padre potrebbe anche telefonarmi e dirmi: signor Telesforo, la colpa è la sua. Tu sei ricercato da Agrigento, cioè. Sì, dalla tua famiglia, dagli Analfino, dagli Analfinos, tipo mamma Sopranos. Mamma mia, comunque adesso sono tanti anni che state insieme, come sì, bene. Ormai 21 anni, noi siamo nati nel 96. Io seguo le vostre pagine, la vostra attività, e noto con grandissimo piacere che affronti delle platee immense. Cioè, oramai siete in Sicilia una super band. Ma devo dire che anche, non in Sicilia, siamo una super band per i siciliani. Ecco, questo sì. Perché anche quando andiamo a suonare fuori, abbiamo sempre, troviamo sempre i club. Sì, scusami, non mi offende, anzi, la cosa ci rende veramente felici, perché poi è vero, durante l'estate noi riempiamo sempre le piazze. Devo dire una cosa importante, che noi siamo un gruppo assolutamente trasversale, cioè nel senso che 20 anni fa, quando noi iniziamo la nostra carriera, venivano dei ragazzi che oggi sono genitori di figli che hanno 20 anni e che vengono anche i figli ai nostri concerti. Quindi siamo un gruppo assolutamente trasversale sotto questo punto di vista, e questo non può far altro che renderci orgogliosi del progetto. Scusami, fammi aggiungere che è anche una band, da questo punto di vista, dopo quello che mi hai raccontato, sessualmente stimolante. Assolutamente sì. Bene, assolutamente, complimenti, sì. È importante anche quello. Sì, un sacco di gente è rimasta, di ragazze sono rimaste incinte. Senti, ma parlami della tua famiglia velocemente. Cioè, ti dico una cosa. Come ti sei formato musicalmente? Allora, perché a casa ci sono appassionati. Allora, da che famiglia vieni? Io perché ho iniziato a fare musica? Io ho capito dove vuoi arrivare. Io ho iniziato a fare musica perché a casa mia non c'erano problemi. Cioè, mio padre e mia madre erano felici. Tante volte abbiamo tentato, i miei fratelli, di farli separare, ma non ci siamo mai riusciti. Ah, mi dispiace. No, tante volte, ma non ci siamo riusciti. Per questo siamo cresciuti, cioè, in questo ambiente così amorevole. Mia madre è sempre premurosa, mio Quindi padre è sempre la famiglia pronto. Unita. La unita. Famiglia unita. Sotto il calore, il focolare della famiglia. E lo dici, capito? Quasi come se ti dispiacesse. E certo, cazzo, mi sarebbe piaciuto essere, che so, un avere tipo dei problemi a casa. Mio padre è drogato, mia madre che si doveva prostituire per portare avanti la famiglia. Così avrei scritto dei testi. Quindi molto una famiglia più banale. Lei. Hai capito? Cioè, la mia è stata una famiglia banale. Quindi tutto quello non... che scrivi è di pura fantasia. Assolutamente. Vabbè, tant'è vero che adesso hai rifatto anche un brano dei Fratelli Righeira. Che è un brano molto triste. Cioè, quando uscì questo pezzo, tutti pensavano che fosse il pezzo da ballare in discoteca. Perché annunciava? Che l'estate stesse finendo. Ecco. A parte, voglio dire una cosa, che in Sicilia l'estate non finisce mai. Voglio dire a chi non è mai stato in Sicilia. Bella. A te dispiace anche questo? Assolutamente no, a me fa piacere. Però sta arrivando anche l'inverno da noi. Infatti ci sono circa 24 gradi per ora. Va sul serio? No, forse 25. Vabbè, io direi allora di ascoltare questa ultima scorribanda musicale di Tinturia in studio. Questo è registrato in studio. Questo l'abbiamo registrato. Vabbè, nel però mio intanto studio. Il Super sta preparando gli strumenti, sta facendo il line check, perché fra pochissimo vi esibirete dal vivo qui dal Groovemaster Studio. Allora, su Radio 24 per il sound check ascoltiamo questa versione dell'Estate sta finendo per i Tinturia con la voce di Lello Analfino. Sono contento che sei venuto, Lello. Grazie. Già, ti voglio tanto bene. Però ti sei imbruttito, e la barba pure non è. Cioè, faccia tu migliori col tempo. Grazie. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Sempre in contatto con The Groovemaster Studio, con la partecipazione speciale, dico speciale, di Lello Analfino, songwriter, cantante, leader ormai storico di una band formidabile chiamata Tinturia, band che personalmente ho scoperto. Quanti anni sono passati? 20 anni. Cioè, mi ricordo che non c'era neanche la lira, si barattava all'epoca. Mi ricordo che per farci produrre il disco portammo dei pasticcini. Ecco, poi, infatti, questa volta la corona siciliana. Tromba, questa volta non hanno portato nulla, sono venuti a mani vuote. Uno arriva dalla Sicilia invece di portare due cannoli, una bottiglia di vino. A onor del vero, ci hanno fermati. Un deodorante di melanzane, no? Alla dogana ci hanno fermato e ci hanno detto di buttare, perché ti spiego, tu lo sai che noi siciliani siamo abituati a portare le cose sotto le ascelle, si sono liquefatte. Tu sai che non possono passare cose oltre le 100 ml, no? Quindi no, ci hanno imposto di lasciarle lì alla. Quindi o di melanzana non l'hai portato, il profumo o di melanzana no. Va bene. Senti, presentaci la band, perché allora, la band comunque nel tempo si è modificata, c'è solo un elemento storico, siete rimasti in due, gli altri che fine hanno fatto? E gli altri, alcuni sono morti. Mi dispiace un sacco. Altri col tempo moriranno, okay. Quindi va bene. Non vi toccate adesso, proprio, che non un è po' bello come, il radio. Un po' come quella la cosa che si è fatta produrre, cioè che doveva scegliere quella Michelin de Geocello. Ecco, che doveva scegliere tra Madonna e Prince. Tu poco fa domandavi a Tromba come mai, cioè tipo chi scelse dei due. Io ti voglio dire, lo sappiamo tutti questo, cioè scelto Madonna perché Prince era un po' morto. Ma era successo era tanti anni fa. Senti, Analfino, presentami la band, vai. Allora sapeva che sarebbe morto. Mm. Allora, alla batteria abbiamo Angelo Spataro, come 20 anni ci fa. Ci conosciamo, Angelo. Poi abbiamo al basso Domenico Cacciatore. Ciao a tutti. Grazie Domenico per essere venuto. E alla chitarra Edoardo Musumeci. Edoardo, vuoi aggiungere qualcosa? Come ti senti? Ti sei riposato? Qualsiasi cosa io volessi aggiungere sarebbe superfluo rispetto a questo livello che avete creato insieme. Grazie, cari. Li tratti così? È un bastardo, guarda. Fidati. Lo conosco bene, ci voleva provare. Li sottometti. Allora, mi ha detto che il primo brano che volete suonare questa sera è proprio, appartiene al periodo storico dei Tinturia. È un pezzo che fu prodotto da te in quel disco che si intitolava Abusivi di necessità. Abusivi di necessità nel disco che poi diciamo è un cult, non solo in Sicilia ma anche diciamo fino a Maratea ci arrivate. Assolutamente, no? Fino a Maratea è arrivato il disco e in quel disco c'era un brano che poi fu quello che vi portò all'attenzione di tutti noi, che era un brano buffissimo allora, che come si intitolava? Giovanotto, e voglio raccontarlo al Super e a Francesco Tromba e anche a tutti gli amici. Giovanotto, praticamente la storia di un ragazzo che viene fermato dai carabinieri in macchina e naturalmente gli trovano le cartine, viene controllato, e gli trovano le famose cartine. No? Sì. È quello, è quello quando l'ufficiale il maresciallo ha qualcosa da dire. Intanto tipo lo sai che il maresciallo quando verifichiamo lo stato perché si vede, gli chiede se avessero qualcosa da dichiarare, lui gli risponde sì, briscola ammazze, questo ormai è rimasto diciamo una. Fatto sta che oggi vi ritrovate qui, ci ritroviamo dopo tanti anni e sono felicissimo, vi potete sistemare ragazzi in postazione, sono felicissimo di presentare live al Soundcheck di Radio 24 Lello Analfino e Tinturia, il brano è splendido e si intitola Luna, live al Soundcheck di Radio 24. Bellissimo, devo dire che è bellissima anche la versione dal vivo, così acustica, con complimenti ragazzi, mi è piaciuto tantissimo. Grazie. Brano è sempre bellissimo, questa è la bellezza di alcune composizioni. Devo dire che nella versione questa acustica il brano diventa immortale in qualche modo. Che grazie, dici, Tromba? Grazie. Beh, bellissimo, fantastico. Sono ti è piaciuto? Hai capito qualcosa? Perché sì, tu da calabrese non hai tante affinità con i Tinturia. Come no? Sì, tantissime, ne capisco tutto. Siamo greci, siamo greci, apparteniamo, diciamo, siamo i greci. Loro sono i greci italiani, noi siamo i greci siciliani. Perdonami, lo sai che devo provocare ogni tanto, assolutamente. No? Va bene, allora, Lello, adesso che fate? Perché voi fate un sacco di concerti. Guarda, d'estate, d'inverno andate in letargo, no? No, d'inverno suoniamo anche moltissimo, ognuno di noi è pure anche dei progetti personali, però solitamente cioè, continuiamo sempre a suonare, per fortuna noi siamo un gruppo di quelli live, cioè la gente, appunto ritornando al discorso di poco fa, ci chiamano sempre perché ci considerano dei riempipiazza in qualche modo. E poi tipo noi per esempio ora, cioè in questi momenti che siamo qui così a casa tua, ora magari tipo per passare il tempo ti toglieremo le foglie dal giardino, cercheremo insomma di una seconda attività, quindi sì, che sì, abbiamo sì. Da fare, Tromba? Ma qualcuno di voi sa cucinare? Sì. Io so fare la pasta col formaggino. E quando mi dicono una volta mi hanno chiesto: ma come la fai la pasta col formaggino? Col formaggino. Ecco, allora ascoltiamo Temetan al soundcheck di Radio 24 con Ça va pas la tête. Che non è quello che pensi tu, Soundcheck. Il suono della musica. I Tinturia di Lello Analfino dalla Sicilia con furore sono presenti al soundcheck di Radio 24, il suono della musica di Radio 24 e anche con i loro strumenti, perché questa sera li stiamo ascoltando dal vivo. Bellissima la loro versione di Luna, una composizione dei Tinturia proprio nell'organico storico, però riproposta in questa chiave acustica molto piacevole. Lello, noi non ci vediamo tanto tempo, devo dire che noi ci incontriamo molto spesso in aeroporto. Sì. Proprio da viaggiatori, una cosa tipica dei musicisti. O in autogrillo. Sinceramente non so che hai fatto. Io so che tu ti sei sposato. Sì, no? Mi sono sposato, una moglie azzurra. Hai figli pure? No, non ho figli. Non lo so se non ho figli, perché sono casa da qualche giorno, quindi non lo so quando torno. Probabile che mia moglie, cioè tipo, poi appena arrivo a casa vediamo se mia moglie è rimasta incinta, perché manco da casa da almeno 2-3 settimane. Prima di partire comunque non era incinta, mi ero assicurato. Sei contento? No. Sì, no, dico. Vabbè, ma tanto cioè, tu hai a me piacerebbe tanto avere dei figli. Tant'è perché che non ti dai da fare? Scusa. Ma infatti sto cercando la persona giusta che si accoppi con mia moglie per avere un figlio. Cioè, tra l'altro, lei è una donna meravigliosa. Cioè, mia moglie è una bellissima, una donna straordinaria, bella. E non lo dico soltanto io, ma no, chi lo dice? Tutti i vicini di casa quando la incontro, dico: tua moglie è straordinaria. Ne parlano tutti bene. È una donna meravigliosa. Meravigliosa, quindi, è generosa. Generosa. Invece tu un po' meno. Io un po' meno. Io vorrei anche essere generosa, ma le vicine non sono così generose con me. Con ecco. Te. E tua moglie invece c'ha mia moglie ha questa ma generosità. Ma guarda, tu pensi, magari lo faccio per vantarla. No. Sai, tipo, quando uno vuole vantare, invece no. Scusami, se ne parla così bene, dovremmo conoscerla anche noi. Sì, assolutamente. La signora Analfino. È una cosa, vi voglio dire. Cioè, tipo, avrei dovuto. E tra l'altro, tipo, la dovrete. Cioè, tipo, poi è una ragazza che comunque che per andare in giro con lei devi spendere dei soldi. Attenzione, cioè, non è che te ne esci così, ristoranti, i migliori ristoranti. Ma scusami, tu come fai che di base, anche se adesso sei un musicista, lo fai da tanti anni, sei riuscito forse a mettere da parte qualcosa, ma la tua mentalità è sempre quella del precario, no? Sì, assolutamente. Infatti io mi prima sono adeguato. Prima eri un abusivo per necessità. Adesso mi sono adeguato, un precario, però ci sono queste agenzie. Noi usiamo moltissimo Fintomestic, che è una cosa dove ti fanno dei prestiti finti, ti prestano proprio l'assegno in bianco. Sì, assolutamente. Va bene, io direi allora di ascoltare, visto che abbiamo chiamato in causa proprio il tema, direi di ascoltare questo brano che hai scritto un po' di tempo fa e che si intitola Precario. Di che parla? Domanda banale, perché il titolo già Precario parla, diciamo, di un pezzo molto introspettivo. Vabbè, andate, vai, su. Devi capire. Precario, Lello Analfino e Tinturia live al soundcheck di Radio 24. Precario live, vieni Lello, torna in postazione qui nella zona broadcast del Groovemaster Studio. Dopo questa interpretazione sofferta di Precario, soffri sempre quando canti quando e racconti la tua storia. Perché mi ci vedo dentro? Cioè, chi è il più precario del musicista? Cioè, non avremmo mai una pensione, alcuni di noi, diciamo di sempre, noi, no? non andremo. E poi, però lo sai qual è la cosa bella? Che cioè noi affrontiamo il nostro lavoro con la consapevolezza che non andremo quasi sicuramente in pensione, a parte i musicisti delle orchestre stabili o che ne so, quelli. Però, tipo, affrontiamo sempre il nostro lavoro con allegria. Quando saliamo sul palco siamo sempre felici, no? A differenza che so che del muratore che magari non andremo pensione come noi, ma quando la mattina se ne va a lavorare, cioè, tipo, diciamo che l'affronta in maniera diversa. Tu dici il muratore non andrà in pensione perché pure quello è precario e assolutamente abusivo? Assolutamente. Tu parli di quel muratore, perché stanno i muratori che lavorano con le imprese che invece sono in regola, perfettamente. Però arrivare a 67 anni per lavorare a fare il muratore a 67 anni. Invece i musicisti, a meno che non facciano parte di un organico tipo un'orchestra, non sono mai in regola. Non sono in regola, perché nel senso non è che ci sono sindacati. La nostra previdenza, lo sai che stabilisce che noi si pigli un anno di pensione ogni 120 date? Io credo che 120 date le faccio tipo in 4-5 anni. Assolutamente sì. Chi le fa 120 concerti? 120 in un concerti anno. In un anno. Cioè, hanno fatto tutte. Ma questo accade solo in Italia, attenzione, perché nel resto dell'Europa i musicisti, gli artisti, guarda, sono trattati in un altro modo. Guarda, tu stai mettendo il dito nella piaga e ne parli proprio con noi che solleviamo queste tematiche sempre qui al Soundcheck di Radio 24 Tromba, no? Sì, danni. Facciamo questo lavoro, non è che facciamo i giornalisti. Mi rendo conto, ed è giusto farlo, perché prima o poi qualcuno al governo si debba rendere conto che c'è una classe di operaia che si chiamano artisti, musicisti, scultori, pittori, che hanno bisogno. Però qualcuno, tu hai detto una cosa, io ho una fortuna che faccio un lavoro che mi piace, e tra l'altro l'altra fortuna è che pur non andando in pensione tu potrai lavorare finché riuscirai a preservare la tua voce e il tuo intelletto. Assolutamente. E io è più del tuo intelletto che già mi sto preoccupando, Analfino. Noto che c'hai già qualche scompenso. Mi dispiace per tua moglie, che forse lo ha capito e si dedica al vicinato. Chi sono? Cioè, dove sono? Ma guardate, allora, quella di poco fa delle battute, no, perché sennò mi lascia. Cioè, assolutamente, ragazzi, però come prima moglie va bene. Placatelo un secondo, fammi ascoltare un po' di musica. Andiamo quindi dalla Sicilia, qui Tromba, andiamo in Sardegna con Aio. Non è sarda. È tedesca. Aio, il brano è splendido, molto carino, si intitola Nothing. Soundcheck, il suono della musica. Lello, Analfino e Tinturia sono nostri ospiti qui al Soundcheck Radio 24. Siamo quasi in chiusura, però qualche minuto a nostra disposizione ancora ce lo possiamo concedere per ascoltare un altro brano dal vivo. Lello, tu vivi a Palermo, però tu sei nato ad Agrigento. Io sono nato ad Agrigento, sì. Vivo a Palermo da un po' di tempo, ho fatto l'università a Palermo, poi da quando ho sposato Azzurra siamo a Palermo e viviamo a Palermo. Invece i tuoi sono rimasti ad Agrigento. I miei sono rimasti ad Agrigento, sì. Agrigento è una città molto interessante, Agrigento anche molto bellissima. Bella sotto tanti punti di vista, sì. Che vive certe problematiche da sempre, però è una città che ha dei capolavori proprio rappresentativi della storia umana. Assolutamente sì, non solo, tu devi capire una cosa, a Camilleri hanno fatto una domanda ultimamente, cioè se tu ti rendi conto, cioè nell'Agrigentino Sciascia, Pirandello, Camilleri, ma altri artisti, cioè abbiamo degli esempi di letteratura straordinaria. Gli hanno chiesto a Camilleri come mai in un raggio di chilometri così piccolo, diciamo, si concentrasse tanta cultura, tanta letteratura. E qual è stata la risposta di Camilleri? Perché scrivere non costa niente. Ecco. Hai capito? E quindi, cioè, essere degli artisti in Sicilia non costa niente, nell'Agrigentino. Poi Agrigento la voglio anche osannare per i colori, per la luce meravigliosa e anche per il fatto, diciamolo, che ormai lo Stargate, da cui passano tanti nostri amici che arrivano dall'Africa, e c'è un esempio, mi piace riportarlo. Bella questa cosa, Tromba, lo Stargate dei profughi africani. Sì. È bellissima questa cosa. Allora, con questo applauso andiamo direttamente a questa composizione dei Tinturia intitolata 9200, che poi è il cap di Agrigento. Eccoli qui live al Soundcheck Radio 24, Lello Analfino, Tinturia. Vai, ragazzi, vai. 9200 il titolo di questo brano, scritto e interpretato da Lello Analfino e i suoi Tinturì. A questo punto siamo ai saluti. Vuoi fare qualche dedica, qualche saluto, Lello? No, volevo solamente dedicare tutta la mia vita, tutto il lavoro che faccio a mia moglie Azzurra. Stavamo scherzando, Azzurra, poco fa, e volevo dire che durante le riprese di questa trasmissione non è stata maltrattata nessuna moglie di nessuno, insomma, durante la messa in onda del programma. Va bene, siamo contenti, ragazzi, complimenti, vi auguro di continuare con il sorriso sulle labbra la vostra attività, e poi ci vedremo presto in Sicilia, perché sai che insomma è uno dei posti più belli del mondo. E per poi me ti adorano in Sicilia, ti adorano, la gente ti vuole bene, lo so, quando tu vieni in Sicilia la gente, ma tu non sai, c'è un fermento in tutta la Sicilia, cazzo, c'è di che devo fare, lo devo ammazzare in diretta, questo, guardate che non è uno scherzo, da città in città c'è tipo questa cosa, c'è, va bene. Lello Analfino e Tinturia, grazie a voi, vi voglio bene, ragazzi, complimenti, restiamo naturalmente in contatto. Noi ci risentiamo domani alle 19:15 per la puntata della domenica del Soundcheck. Grazie al super Riccardo Bomarzi, grazie a Francesco Tromba, grazie a tutti voi. Vi lascio ancora una volta con Antonio Song, una composizione di Michael Franks nella versione del nostro amico Leo Sidran, album fantastico dedicato alla musica di Michael Franks, album intitolato Cool School, The Music of Michael Franks. A tutti voi buona serata da Giorgio Telesforo.